So, faced with Lorenzo's charm, it seems that Sarah's changed her mind about being tired and not hungry. Before you hear the next part of this dialogue, here's the new language to help you understand it better. Ascolti e ripeta. Cominciamo. Ci vediamo. We see each other. Ci vediamo. Alle 9. At 9 o'clock. Alle 9. Tardi. Late. Tardi. In Italia. In Italy. In Italia. A dopo. See you later. A dopo. Arrivederci. Goodbye. Arrivederci. Here are those words and phrases again. Tardi. Ci vediamo. Alle 9. In Italia. A dopo. And finally, that word for goodbye. Arrivederci. Here's the rest of the dialogue in the corridor. Se non è troppo stanca, ceniamo insieme. What? Ceniamo insieme. We have dinner together. Okay? Well, yes, thank you. But I need to get changed. Nessun problema. Ci vediamo alle 9. At 9 o'clock. Va bene? 9 o'clock? That's not too late. Troppo tardi? No, no, no, no. In Italia non è troppo tardi. Okay then. Va bene. A dopo. See you later. See you later, but where? Dove? Alla reception. Reception? Another English word. Okay, alla reception. Arrivederci. Goodbye. Arrivederci.